Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Benvenuti ad una nuova puntata di questa trasmissione che ormai vi accompagna quotidianamente da quasi un anno e mezzo. Allora vi ricordo subito l'indirizzo mail alla quale indirizzare le vostre segnalazioni: un abuso al giorno @radio24.it. Allora, oggi parliamo di un tema, come sa chi mi segue, a me particolarmente caro e che in radio abbiamo spesso affrontato, vale a dire il tema della pervasività delle mafie oltre i terreni e i territori classici ai quali siamo abituati a pensare, vale a dire quelli del sud. Chi mi segue sa che ormai da anni vado scrivendo di una infiltrazione delle mafie capillare ben oltre la linea campana, ma a quanto sembra non tutti sembrano accorgersi, da Milano a Roma. E perché dico Roma? Perché il 22 gennaio c'è stato, lasciatemelo dire perché la dico sempre come la penso, una desolante seduta del Consiglio regionale che aveva per tema proprio le mafie a Roma e nel Lazio. Devo dire che ho assistito in diretta alla messa in onda della seduta del Consiglio, devo dire mi sono annoiato moltissimo, pochissimi consiglieri presenti, c'era più pubblico che consiglieri. Allora, per parlare di questo che non oso, che non ho paura a definire un vero e proprio buco nell'acqua, e della cecità dei consiglieri della Regione Lazio, io ho chiamato a parlarne Luisa Laurelli, che è presidente della Commissione Sicurezza della Regione Lazio. Benvenuta Laurelli. Buongiorno. E ho chiamato a parlarne anche Antonio Cicchetti, che è capogruppo di Alleanza Nazionale, quindi parliamo del Partito della Libertà in Consiglio regionale. Salve Cicchetti. Buongiorno. Allora, Laurelli, lei è del centrosinistra del Partito Democratico, direi proprio di partire da lei. Confermi o smentisca, ovviamente, la mia sensazione di un dibattito davvero fumoso, con scarsa attenzione. Addirittura è stato un momento in cui un consigliere regionale ha detto al vicepresidente del consiglio di turno: se non è interessato, inutile che continui a parlare, altrimenti è come sbattere la testa contro il muro. Allora, chi ha paura di parlare di mafia a Roma, Laurelli? Ma intanto alcuni colleghi consiglieri e alcuni gruppi politici hanno paura di parlare di mafie a Roma e nel Lazio. Devo dire che nel preparare la mozione, che speravo potesse rappresentare unitariamente il pensiero di tutto il Consiglio regionale del Lazio, io mi sono imbattuta in richieste di colleghi, in particolare del centrodestra, che trovo veramente irresponsabili. Quando si dice che bisogna togliere dai documenti qualsiasi riferimento alla provincia di Latina, quando si è preteso di annacquare il più possibile i periodi relativi alla questione della richiesta di scioglimento del Consiglio Comunale di Fondi da parte della commissione d'accesso del prefetto di Latina, io dico che irresponsabilmente alcuni colleghi vogliono mettere la testa sotto la sabbia e non vogliono prendere atto di una realtà che è certificata purtroppo da fatti che vengono segnalati all'opinione pubblica quotidianamente, purtroppo in tutto il sud del Lazio e lungo il litorale del Lazio, dalla magistratura e dalle forze dell'ordine. Ecco, io la interrompo un attimo, Laurelli, perché ovviamente io la penso non come lei, perché a me non interessa assolutamente nulla della politica, faccio il mio lavoro da giornalista, ma la penso come lei in un determinato aspetto, vale a dire della pervasività della mafia a Roma nel Lazio: centinaia di immobili confiscati, esercizi commerciali nel centro cittadino nelle mani della criminalità organizzata, 'ndrangheta, camorra, come vogliamo, ma soprattutto il cuore politico di questa nazione, che speriamo non sia una nazione infetta, come titolava nel 1956 l'Espresso. Io dico che chi chiude gli occhi sbaglia. Poi posso sbagliare io, sia ben inteso, ed è per questo che vorrei capire come la pensa Antonio Cicchetti, che è appunto capogruppo di Alleanza Nazionale. Lei ha dichiarato in Consiglio regionale, leggo testualmente, nulla di nuovo sotto il sole. Di nuovo c'è soltanto l'allarme vestito, appunto, di nuovo celebrato ritualmente. Allora Cicchetti, perché nulla di nuovo? Perché già nella decima legislatura, quella repubblicana che va dal 1987 al 1992, la Commissione parlamentare antimafia produsse una serie di documenti che sono rintracciabili agli atti, attraverso i quali ricorrevano sempre gli stessi nomi, parlo di Carmine Alfieri, parlo di Pippo Calò, parlo di Enrico Nicoletti, che sembra essere attivo ancora. E lì sì. Quindi Banda della Magliana, ricordiamola a chi non è romano e chi non è laziale. Banda della Magliana, esatto, certo. Esatto. Lì si individuavano una serie di esercizi commerciali, di ristoranti, di bar, di rivendite di automobili, di agenzie assicurative, con nomi e cognomi. Ecco, ma allora quindi dov'è? Non c'era nulla di nuovo. Ecco, però non le pare che, non le pare che ci sia stato un salto impressionante di qualità? Perché lei ricorda dei nomi che sono nomi storici, che hanno fatto la storia, molti di questi, portati gioco forza a Roma, ricordiamo gli anni oltretutto del confino e dell'esilio, magari fosse stato un esilio, in giro per l'Italia. Ecco, ma non le pare che ci sia stato un salto di qualità e non le pare che comunque bisogna affrontarli questi temi? E quale è il luogo deputato se non un'assemblea quale il Consiglio regionale o il Consiglio comunale o il Consiglio provinciale? Perché questo buco nell'acqua, Cicchetti? Ma guardi, io sono uno dei più presenti consiglieri. No, no, ma infatti non mi riferisco a lei, non mi riferisco a lei, lei c'era. Quindi poi ecco, le sensibilità sono anche differenti in ordine a determinati temi. Io credo che si vada diffondendo la sensazione di una profonda inutilità, perché questa gente circola ancora, ripeto, c'è gente ancora attiva. Io le sto citando una relazione che come termine ultimo porta la data del 1992, sono passati 16 anni, il fenomeno non si è placato, anzi va incrementando. Ecco, mi pare quindi che lei, io riassumo, mi corregga se sbaglio, solo per la lineatura. Ecco, lei dice buonissima. Tutto sommato però le dice qui stiamo facendo chiacchiere, parole. Ecco, questo è chiacchieropoli. Oh, il okay. Bilancio delle chiacchiere. Allora, benissimo, chiacchieropoli su questa, come dire, legittima presa di posizione. Io chiamo ad interloquire la Laurelli. Insomma, fate chiacchiere, cioè la politica fa chiacchiere e non fa fatti, mi pare di capire. Il Consiglio regionale del Lazio si è occupato delle mafie sul suo territorio soltanto il 22 di gennaio del 2009, quindi il collega Cicchetti, che ama citare atti di altre istituzioni vecchi come il Cucco, prenda atto intanto che l'amministrazione Marrazzo ha voluto portare alla luce in un dibattito consiliare questo grave fenomeno che ci preoccupa. Chiacchieropoli, lo dice lui, quando assieme ai suoi colleghi pretendeva perfino che venisse tolta dalla mozione il riferimento allo scioglimento del Consiglio Comunale di Nettuno per motivi di gravi infiltrazioni di mafia, dicendo alcuni suoi colleghi di Forza Italia in particolare che poi l'esito finale di questo scioglimento qual era stato? Quanti arresti sono stati confermati? Realisticamente che cosa è cambiato? Come se non avessero visto che sono stati dopo oltre 2 anni rifatte le elezioni, si è reinsediato un consiglio comunale, sono stati messi sotto inchiesta dirigenti, funzionari, politici, in particolare devo dire politici del centrodestra, suoi dirigenti di partito. Ora, buttarla come diciamo noi in caciara non credo faccia bene alla nostra istituzione e credo che ci renda molto più deboli di fronte al fenomeno di pervasività della grande ecco, criminalità delle mafie nei nostri territori. Laurelli, io la ringrazio del suo intervento, mi pare che sia stato chiarissimo, così come chiaro è stato quello di Cicchetti, al quale vorrei lasciare una battuta finale. Cicchetti tornerebbe in consiglio per parlarne? Ma guardi, io mi augurerei che magistratura e forze dell'ordine facessero il loro dovere fino in fondo, confinando in carcere in maniera definitiva i soggetti che sono all'attenzione. Guardi, quando parliamo di scioglimento dei consigli, in realtà non risolviamo il problema. Il problema è prendere i soggetti, perché la responsabilità penale è personale e non collettiva, e metterli in condizioni di non nuocere. Vorrei che lei ricordasse le vicende della banda Bader-Meinhof in Germania. Ormai le conoscono soltanto i giornalisti e gli storici. Sì, questo è correttissimo. Fu sgominata. Questo è correttissimo, però è facile replicare che la banda Bader-Meinhof aveva delle connivenze anche politiche, invece nei fenomeni mafiosi purtroppo abbiamo dei politici che hanno anche connivenze di altro tipo. Quindi secondo me è proprio ribaltato il piano. Questa è però un'impressione assolutamente personale. Io ringrazio ovviamente Cicchetti per il suo intervento e ricordo a tutti, per chi volesse approfondire questi temi, sul mio blog Guardie o Ladri, sull'home page del Sole 24 Ore, oppure andate su Google e cercate il blog di Roberto Galullo, troverete approfondimenti su questo tema e anche documenti sulle mafie a Roma e nel Lazio. Grazie ai miei ospiti, grazie a Fabio Cantadori in regia e a Laura Faggini in studio, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno.